trovo il cuore, ti trovo ancor. Dio me saudì. Thank you. non ne so. Mentici molto, però Ma che temete? Dovremo sempre nel d'amore e fra noi mortal bestiale si cadrà per mano mia un sol colpo vittoria un sol colpo vittoria con la mente il protettore va derisce tal sciagura ma se fosse l'uccisore e con unica sventura io m'avvento a me fatale la mia morte che mancare e partite e sono istante partirò ma giura in ante che dovunque seguirai seguirai i passi miei ma non c'ho mai no mai ma sciagurato scorda un nome che infamato va mi lascia sulla mente rifugirti il giuramento sagrio feci a chi? Dillo chi potea a chi dritto pienna mea fu tu fai sì dunque l'ami ben l'amo or tutti a me all'alma più non ragiono dai perdono più non avrò voglia fuggirla non ho potuto dall'ira spinto son qui venuto orché lo sdegno ho disfogato m'è sciagurato rimorso Prospero che l'ama, che si è fedele, e non si è fedele. Yeah.

vuol dirvi? Prevenirvi volli una gioia improvvisa. Una gioia? Dicesti? Sì, o signora. Andremo, a voi vedesse. Da questo palpito si atterra in pace, senza desistere più non potrei. Ma sangue in vena, ma il mio dono, e mi concedere quel dono. Scorda l'affanno, donna volata, a me perdona il genitor. Io ne perdoni, l'aria salio, ma solo amor da dirle te. L'uomo debole, angel mio, mai più dividermi potrà da te. saprai. Di cosi affanni compensa avrai. Ma io so. La fe di padre mio, di più non lo cerchi, troppo rimorso l'alma mi divora, quasi fulmi la terra con il suo detto. Ama il poco vegliardo, il mal che io feci, ora sol vedo. Rinasce, magica, insolito vigore.